Vissi d'arte, vissi. Rubrica di donne, vita e arte. Il titolo della puntata odierna è Iconografie lesbiche, Romaine Brooks. Un saluto da Alessia. Benvenute e benvenuti alla sesta puntata della trasmissione Vissi d'arte, Vissi, l'appuntamento mensile con le artiste. Oggi parleremo dell'artista americana Romaine Brooks. L'americana Romaine Beatrice Goddard nasce a Roma il 1 maggio del 1874 e proprio dalla città eterna trae il suo nome. Come giustamente è stato notato, tre sono i fattori decisivi per leggere la sua vita e la sua opera. La nascita in seno ad una famiglia dell'alta borghesia americana, le cui ricchezze ed entrature sociali le faciliteranno l'accesso al mondo della high society europea, l'orientamento sessuale lesbico e il carico delle problematiche esistenziali e mediche familiari. Vita privata e produzione artistica si legano indistricabilmente nell'opera di Romaine e ne condizionano decisamente iconografie e scelte tematiche. Personalità scostante, ombrosa, dipinge opere cariche di emozione, poesia, mistero, non poche volte attraversate da un sottile sense of humor, in cui la biografia affiora, per vie traverse ma non meno parlanti. Opere che la pongono tra le prime artiste a ricercare nuove modalità di rappresentazione del lesbismo. L'infanzia e l'adolescenza di Romaine sono difficilissime, senza padre, con una madre che presenta tendenze maniaco-depressive ed è ossessivamente dedita al primogenito che soffre di schizofrenia, ignorando sistematicamente le due figlie, Mary e Romaine, cui rimprovera di avere la salute che manca a Saint-Marc. Inoltre detesta avere una sistemazione fissa e per anni la famiglia traslocherà di albergo in albergo, di città in città, di nazione in nazione, continuamente sradicata e precaria. Alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento la famiglia si trasferisce in Europa. Qui Romaine decide di dedicarsi all'arte. Siamo negli anni 90 dell'Ottocento, in piena temperie simbolista, e l'arte vive una stagione frenetica. Tuttavia Romaine si rifiuta, e lo farà sempre, di identificarsi in un movimento e in una corrente, e non ammetterà mai alcuna influenza sulla sua opera, senza neanche ammettere la frequentazione di musei o esposizioni o altri artisti. Forse è per questo che si trasferisce ad un certo punto a Roma. Vuole studiare le tecniche pittoriche in un contesto accademico lontano dai centri artisti più importanti come Parigi, Londra o Vienna. Questa giovane ragazza indipendente è un'anomalia per l'epoca, ma soprattutto per Roma e per l'Italia. Vive da sola in una piccola stanza a Via Sistina, è economicamente autosufficiente, non ha chaperon. Deve quindi lottare per tenere a bada professori, colleghi dell'Accademia di Belle Arti, padroni di casa, semplici passanti. E a tal scopo acquisterà ad un certo punto addirittura un revolver. Dopo diverse peregrinazioni, visita nel 1899 Capri. Qui trova nel paesaggio e nella semplicità dell'isola un luogo dove le proprie ansie sembrano finalmente acquietarsi, almeno in parte. Non si tratta certo solo del mare e del sole. Capri ospita in effetti una colorita e ormai leggendaria comunità internazionale, un ambiente a sé dove arte, omosessualità, sperimentazione artistica ed esistenziale, lusso e bohème vanno a braccetto senza troppo scandalo. C'è posto per tutti, anche per Romaine. Nel 1901 però Saint-Marc muore e nel 1902 lo segue, ormai sul limitare della follia, anche ella, la madre. Romaine e la sorella Mary si scoprono ricchissime. Non è probabilmente un caso che di lì a poco l'arte di Romaine trovi all'improvviso la sua strada, finalmente fuori dall'ombra materna. Ma ancora molti anni dopo Romaine scriverà: «Mia madre morta si interpone tra me e la vita. Io parlo come lei desidera, agisco come lei comanda, è la principale causa di ogni mia avversità». La madre era stato un elemento disgregante della vita e della personalità di Romaine, che svilupperà per reazione una freddezza e un controllo potentissimi. La solitudine sarà la scelta di Romain, una solitudine cercata e coltivata che può essere letta come incapacità di socializzare, come sostanziale difficoltà a costruire rapporti sentimentali equilibrati o come estrema difesa. Tuttavia, sul momento Romain ha una strana reazione. Tornata a Capri dopo i funerali della madre, acquista Villa Cercola e sposa John Ellingham Brooks, pianista dilettante, esteta squattrinato ed omosessuale, ma possessivo e geloso come molti mariti. Nel giro di pochi mesi si separano, ma Romain ne conserverà il cognome. Come Romain Brooks, infatti, ha cominciato a farsi conoscere in quanto ritrattista nella piccola cerchia degli amici capresi. Dopo un soggiorno a Parigi va a Londra e di lì a Saint-Yves, sulla costa della Cornovaglia. Siamo nel 1904. La cittadina balneare ha una tradizione artistica ben definita, capace di ispirare artisti come Whistler, Sickert, Sargent, ed è il punto d'incontro tra cielo e mare che campeggerà per sempre nella letteratura inglese attraverso Al faro di Virginia Woolf. Saint-Yves incanala finalmente la sua attenzione artistica in una direzione ben precisa. Non è tanto una questione di forme o di soggetti, quanto di colore. Nella qualità opalescente e continuamente cangiante del suo mare grigio e delle sue brume vaporose, l'artista costruirà finalmente la sua palette, infinite modulazioni di grigi e toni scuri indagati con ostinata concentrazione. Trovare un linguaggio appropriato è, per un artista, arrivare al nucleo profondo del sé. A Saint-Yves, Romain Brooks troverà se stessa. Tra l'estate di Saint-Yves, 1904, e quella tragica di Sarajevo, 1914, l'artista ha un obiettivo evidente, che è quello di scoprire le possibilità emozionali e direi quasi narrative del colore, guidato in composizioni sempre più lineari, essenziali. Non si va in direzione di un espressionismo fauve, ma piuttosto nella direzione della ricerca cara Whistler, che è l'unico artista che Romain riconosce a sé vicino. La resa di un sentimento quasi musicale dell'armonia visiva, basata su infinitesimali variazioni ed accordi di toni. Non a caso l'amore per la musica è un altro dei legami ideali tra Romain e l'artista suo compatriota. E se Whistler inserirà la musica nei titoli dei suoi quadri, ricordiamo Armonia in grigio e nero, ritratto della madre, o Notturno in grigio, neve a Chelsea, oppure Sinfonia in bianco, ritratto di fanciulla, Romain Brooks, che sa suonare con garbo e ama immensamente soprattutto Debussy, inserirà più volte elementi musicali nei suoi quadri. Tra questi è ad esempio Il piano del 1910. Al centro della tela una poltrona accoglie una giovinetta. Vestita con cappa e una piccola toque, ricorda vagamente un Manet. Ella si tende con attenzione nell'ascolto, in modo che il suo profilo delicato sposta il peso del quadro verso sinistra, e l'elemento geniale della composizione è, come scrive il critico Michel de Brouwer, un'idea sorprendente, l'avere mostrato la musica come un elemento che viene da un altrove e di aver raffigurato l'ascoltatrice girata in apparenza verso un punto esterno al quadro, nonostante ella sia invece volta verso il soggetto principale, la sorgente musicale, vale a dire il piano. Del pianoforte, infatti, che dà titolo al quadro, noi possiamo solo intuire una massa oscura che è l'equivalente visivo della vibrazione profonda delle sue corde. Evocato dal titolo, lo strumento offre allo spettatore il fianco oscuro, passando sul fondo del quadro come un cetaceo di altre ere geologiche. Alla piccola ascoltatrice il compito di incarnare il rapimento estatico, accordo perfetto tra il tempo della musica e quello dell'immagine. I feel like changing my mind. La dimensione narrativa de Il piano è un'eccezione anche in questo primo periodo dell'opera di Romain Brooks, che soprattutto lavora sul ritratto. Il XIX secolo ha rappresentato un'epoca d'oro del genere, sempre molto amato nella storia dell'arte moderna occidentale, e che trova ora nella grande borghesia urbana ed industriale una nuova committenza da affiancare a quella tradizionale dell'aristocrazia. Ma non è tanto il valore sociale quello che interessa all'artista, quanto l'intimità concentrata e tranquilla che la sembra poter stabilire con le sue modelle. Infatti, a fronte di una produzione ritrattistica mondana che segnala il suo ingresso nel bel mondo parigino di cui raffigura tutte le donne più in vista, molte delle opere di questo periodo sono studi di figure femminili anonime, spesso domestiche o vicine di casa, raffigurate in interni essenziali. Tutta l'attenzione dell'artista sembra puntata su una resa emozionale che si basa non tanto o non solo sulla capacità di indagine fisionomica e psicologica, quanto sull'accordo tonale. Il più indicativo in questo senso è il bellissimo ritratto intitolato Nastri Verdi o Giovane ragazza inglese, Occhi e Nastri Verdi, del 1910, raffigurante una giovane vestita di bianco, seduta su uno sfondo scarno lasciato allo stato di abbozzo, in cui la linea nera della ringhiera di un balcone apre verso un panorama cittadino talmente indefinito da sembrare un sogno. L'affascinante equilibrio dei neri, dei grigi e dei bianchi viene rilanciato per contrasto dallo stupore verde degli occhi dallo sguardo inquieto, che trovano un'eco sommessa nei nastri verdi e rossi dell'abito e dei capelli. Come in una partitura musicale, la ricerca è tra lo slancio d'insieme dei toni e il contrappunto di piccole note isolate. Ma ciò che più colpisce è che dal linguaggio puramente pittorico dei colori emerga una realtà psicologica, un ritratto dell'anima prima ancora che del corpo. Nel 1923 il critico Gustave Kahn scriverà di questo ritratto cose vere per molte delle sue opere. Dall'insieme emana un'impressione meditativa, concentrata, letterale nelle sue motivazioni, ma accuratamente plastica e risolutamente fondata nella pittura pura, per l'allontanamento non solo di ciò che è aneddotico, ma di quel che è semplicemente accessorio. È l'intento di rappresentare il carattere con una sfumatura in più di precisione, di dipingere il temperamento. È una volontà di veder chiaro nel fondo degli esseri e di riportarne un'immagine veritiera che ne esprima al contempo lo spirito e l'apparenza. Ma la natura intimamente riservata dell'arte di Romain Brooks non significa isolamento. Nel 1910 un'esposizione di 13 quadri la consacra artista riconosciuta grazie ad uno dei più importanti galleristi parigini, Paul Durand-Ruel. L'esposizione fu un grande successo. Con queste semplici parole, Brooks racconta il lancio internazionale che la vede recensita, omaggiata ed invitata ovunque, accompagnata dall'etichetta che il barone Robert de Montesquieu coniera sapientemente per lei, Cambrioleuse d'âme, ladra d'anime. Gli ultimi anni della Belle Époque sono gli anni del maggior successo mondano di Romain Brooks, cui non nuoce la curiosa caratteristica di essere una pittrice che non ama lasciare andare i suoi ritratti. Raramente infatti li consegnerà alle persone effigiate e nel corso degli anni la sua possessività giungerà al punto di farsi restituire quelli donati, a volte addirittura sottraendoli con scuse e sotterfugi d'ogni genere. Quest'epoca è animata anche da un incontro con uno dei personaggi più caratteristici dell'epoca, Gabriele D'Annunzio, che conosce probabilmente nel 1909 a Firenze. Tra i due nasce un'amicizia dalle sfumature infiammate, spinta a slanci esasperati dall'intrinseca teatralità dei due, ma soprattutto di D'Annunzio, ovviamente. Per lei D'Annunzio comporrà sonetti, scriverà lettere magnifiche, per lei, come per tutte le sue amanti, conierà un nome delicato, Cinerina, ispirato riconoscimento di un linguaggio artistico unico, e di lei scriverà nel Notturno. Cinerina è là, con quel suo strano viso geniale che mi fa pensare al giovinetto Beethoven, con quei suoi occhi più grandi del solito, a cui arricchiscono lo sguardo, la malinconia e l'ironia mescolate come un misterioso collirio. Per lui Romain dipingerà due splendidi ritratti e lo sosterrà economicamente nella creazione del Martyr de Saint-Sébastien. Attraverso lui poi conoscerà Ida Rubinstein, ballerina e attrice russa. La sua bellezza androgina e sofisticata ispira ad D'Annunzio il Martyr de Saint-Sébastien, Maida Rubinstein è una musa anche per Brooks, che, folgorata dalla sua presenza fisica così fuori dai canoni, ma così simile a certi suoi nudi ideali, ne fotografa più volte il corpo nudo, alto e magro, e la raffigura in diversi ritratti, schizzi e disegni di sensualità modernamente gothic, come lo splendidamente funereo Tragitto o Donna Morta del 1912 o la Venere Triste del 1916. La Prima Guerra Mondiale, nata come un'avventura cavalleresca, si conclude in un epocale bagno di sangue. La carneficina non stronca solo intere generazioni, ma segna un cambiamento irreversibile in strutture sociali e modelli comportamentali vecchi di secoli. Nasce il XX secolo e Romaine ne rimane stordita come tanti della sua generazione e del suo ceto. Il primo dopoguerra, tuttavia, non è solo disinganno e smarrimento. In questi anni, infatti, Romaine ha conosciuto Natalie Clifford Barney, scrittrice arguta, intellettuale saloniere, ma soprattutto irresistibile tombeuse de femme, figura di spicco e di riferimento del milieu lesbico mondano ed internazionale. Due spiriti quanto mai distanti, avida di vita e di esperienze l'energica Natalie, schiva e reticente l'ombrosa Romaine, eppure si innamorano l'una dell'altra ed instaurano una relazione ufficiale, seppure con le sue particolarità. Natalie, infatti, è una forza erotica che nessun legame può imbrigliare, e anche Romaine si concede non poche distrazioni, seppur cercando di tenerle nascoste. Il loro rapporto durerà fino alla fine degli anni Sessanta, quando Romaine si allontanerà dalla sua Nat Nat perché la più che ottantenne Wild Girl ha fatto ancora una conquista. Drives me. discovered itself. Great visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Vi ricordo che siete in ascolto di Vissi d'Arte, Vissi, rubrica dedicata alle donne artiste, incentrata questa sera sull'artista americana Roman Brooks. È a mio parere fondamentale, per analizzare al meglio la sua opera, leggerne la vita privata seguendone in filigrana l'elemento lesbico. Se infatti Natalie Clifford Barney ha fatto del suo lesbismo la bandiera di una personalità straripante di energia, usandolo fin dal suo arrivo a Parigi nel 1897 come arma per assaltare il bel mondo francese ed europeo, Romaine ha invece sempre preferito tenere la sordina sulle sue preferenze sessuali, almeno nelle parole. Nelle sue memorie, infatti, ella vi accenna sempre di sfuggita, vagamente. Parla di amicizie, di simpatie, di adorazioni platoniche, senza mai ammetterne l'elemento erotico ed amoroso, neanche nel caso di Nathalie, mentre citando le sue fugaci passioni giovanili per uomini, per lo più omosessuali, lascia intuire un coinvolgimento più intenso. Tuttavia un grande artista può nascondersi dietro le parole, ma non dietro le sue opere, che anzi, tanto più l'arte è reale, tanto più parla. Se si è fedeli a se stessi, nella vita come nell'arte, l'ambivalenza è quasi impossibile. Gli anni venti segnano un nuovo, diverso apice della pittura di Roman Brooks, un apice non solo artistico, ma esistenziale. Roman è un'artista affermata, perfettamente padrona di una tecnica ormai virtuosistica. È un personaggio mondano internazionale. È una stella del milieu lesbico internazionale, in virtù del suo rapporto privilegiato con Nathalie, che riverbera su di lei un alone prestigioso. È una donna affascinante dalla bellezza androgina, che sembra molto più giovane dei suoi 40 anni, ha ricchezza, cultura, intelligenza, personalità. Le sue conquiste sentimentali, per quanto instabili, non si contano. Le ombre tentacolari che la lacerano in profondità sono nascoste. Il mistero non fa che accrescerne lo charme. Romaine ha lasciato diversi autoritratti che parlano della lenta evoluzione della sua personalità e della sua immagine. Tra questi vi è l'ultimo in ordine cronologico, databile fra 1920 e 1923. Ritratto dell'artista rappresenta certo l'immagine definitiva che Roman Brooks ha voluto lasciare di sé ai posteri, un ritratto che è stato definito un'autovalutazione potente ed onesta, quanto mai somigliante alle descrizioni che dell'artista hanno lasciato i suoi contemporanei. L'arte e la vita si fondono in una sola immagine, grazie ad un'allure androgina e sofisticata segnalata da un abito a giacca nero, illuminato dai profili bianchi della camicia maschile dal collo alto. Il cappello a cilindro, che era una delle sue caratteristiche note stravaganti, è qui un'affermazione di stile, portato con la stessa eleganza blasé dei guanti grigi. Gli anni hanno segnato la bellezza di Romaine, che non per questo è meno affascinante, e anzi, con abilità fa baluginare nell'ombra scura del cappello la luce nera dei suoi occhi. L'unica nota di colore è il rosso delle labbra piene, come quello del nastrino della Legion d'Onore. La sensualità della carne si accorda con il rigore dell'impegno civile. L'artista campeggia nera contro il cielo, autorevolezza, femminilità, sicurezza senza ambiguità. Romaine Brooks è un'artista geniale, una patriota esemplare, una donna seducente che ama le donne e sa dichiararlo coraggiosamente attraverso il codice linguistico lesbico della sua epoca. Ella crea qui un ritratto che si inserisce di diritto e con orgoglio nella grande tradizione ritrattistica europea. Conviene allora ricordare le parole di Natalie Clifford Barney in Aventure de l'Esprit, quando parla appunto di Romaine. Psicologa quasi senza avvedersene, ella porta sulla tela i segreti meglio celati dell'individualità che raffigura, compresa se stessa, quindi, al di là del proprio personaggio. Is it enough to have some love? small enough to slip inside a book, small enough to cover with your hand, because everyone around you wants to look. Is it enough to have some love? Small enough to fit inside the cracks. The pieces don't fit together so good. For all the breaking and all the going back. And I am still not getting what I want. I wanna touch the back of your right arm. I wish you could remind. Con occhi diversi possiamo a questo punto guardare alcuni dei ritratti eseguiti da Brooks negli anni 20, periodo d'oro della sua produzione. Gli anni 20 sono anche quelli in cui ella allaccia una serie di relazioni lesbiche che l'aiutano forse a rafforzare un'identità sessuale vissuta con difficoltà. Come non collegare dunque sperimentazione sessuale ed exploit artistici? Quasi tutti i protagonisti delle sue opere sono donne, con cui spesso intrattiene brevi, brucianti rapporti amorosi che iniziano e finiscono nel tempo di un ritratto. La complessità di questi legami, amicali o erotici, il loro inscriversi in un universo lesbico di relazioni complesse tra loro e relazione alla società, Tutto ciò si riflette nella costruzione di iconografie in cui dato biografico, ruolo sociale ed identità sessuale sono elementi portanti del discorso artistico. Datano all'estate del 1919, un'estate particolarmente gloriosa per la carriera d'artista e di seduttrice di Romain, il suo rapporto con Renata Borgatti e il ritratto che ne nasce col titolo Renata Borgatti al piano. La Borgatti, figlia del tenore wagneriano Giuseppe Borgatti, è una virtuosa del pianoforte. Il rapporto tra le due nasce con grande slancio reciproco. La bellezza severa di Renata è apprezzata da Romain, che l'aiuta anche economicamente. Poi, come caratteristico nella sua vita, man mano che si snocciolano le sedute di posa e gli incontri amorosi, l'entusiasmo viene meno e la fine del lavoro coinciderà con quella del legame tra le due. Ma il ritratto che ne nasce è un vero e proprio capolavoro di iconografia musicale. Ancora una volta, la presenza di uno strumento musicale spinge Romain Brooks a creare qualcosa di eccezionale. Su uno sfondo neutro, virante al terra di Siena, il pianoforte occupa quasi 2/3 dell'estensione della tela. Nonostante ciò, come nel piano, lo strumento non è mostrato per intero, quasi che l'immensità della musica non potesse essere rappresentata che da qualcosa di potenzialmente infinito. La pittrice dei grigi è stata definita, ma Romain è anche la pittrice dei neri, colore dalle mille sfumature, che utilizza in moltissime tonalità di nero, opaco, lucido, profondo, caldo, freddo, parcellizzando il grigio in linee sottilissime che disegnano i fianchi dello strumento. Renata Borgatti è a sinistra, leggermente protesa verso i tasti. Vestita di un completo nero, illuminato da una camicia bianca, la sua bellezza mascolina, la sua straordinaria somiglianza con Franz Liszt, testimoniata da tante foto e accentuata da capelli corti alla nuca, ogni elemento fisico di questa giovane donna viene esaltato e sottolineato dall'intensa concentrazione che ne promana. Tuttavia l'opera è stata spesso intesa come un'immagine della musica più che di una musicista. L'elemento fisico e biografico viene infatti quasi sottomesso alla presenza del pianoforte e l'insieme strumento musicista si fa stanza, concretezza della musica al di là del tempo e dello spazio umani. L'universo di Renata Borgatti è la musica, null'altro è fuori di lei, sola in una dimensione aspaziale e atemporale, una asceta in meditazione. Ancora una volta, Gustav Kahn ha espresso mirabilmente questa strana sospensione. Ella sta per suonare. Tutta la pagina musicale si risveglia in un solo slancio nella sua memoria. Immobile, prima della prova nervosa e fisica dell'interpretazione. È una statua dell'attenzione. Concentrazione di Renata sulla musica, di Romain su Renata. Il rapporto artistico, le arti della pittura e della musica che tentano una fusione impossibile e che vi riescono, sono lo specchio senza ombre di un rapporto amoroso fragilmente umano. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acu- Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Eclatanti iconografie lesbiche sono invece quelle che Romain crea per Gluck, una Troubridge, Natalie Clifford Barney, Elisabeth de Grammont e altre ancora. Romain conosce a Londra nel 1923 Anna Gluckstein, artista inglese di origine ebraica, figlia di una celebre cantante dell'epoca, Francesca Hall, e del fondatore della catena di ristoranti Lyons. Anna è giovanissima, ma ha già le idee molto chiare, sia sulla sua identità sessuale che artistica. Come molte altre lesbiche dell'epoca, esprime il suo lesbismo attraverso l'adozione di un abbigliamento decisamente, mimeticamente maschile. Ai nostri giorni, in cui l'abbigliamento unisex sportivo ha abolito le rigide distinzioni tra i sessi e le donne portano indifferentemente gonne e pantaloni, è difficile rendersi conto della portata quasi oltraggiosa agli occhi dell'epoca di certe scelte vestimentarie. All'epoca, e in alcuni paesi fino agli anni 60, si poteva essere fermate dalla polizia in casi di look troppo coraggiosi. L'incontro tra le due donne è anche un incontro di due artiste. Mentre la passione divampa, entrambe decidono di raffigurare l'altra con i mezzi della propria arte. Gluck, così l'artista ama presentarsi e firmarsi, e lei diceva senza prefissi, senza virgolette, nonostante la sua immagine butch, dipinge fiori, molto apprezzati da una selezionata committenza altoborghese. È anche una brava ritrattista e il suo autoritratto con la compagna Nesta Obermar sarà scelto per la prima edizione inglese dopoguerra del Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall. Ciò nonostante, il suo ritratto di Romain procede con difficoltà, tanto che alla fine della loro storia riutilizzerà la tela per un'altra composizione. Vi è della rivalità, forse, vi è una sostanziale incompatibilità di fondo. Le reticenze di Romain non possono non innervosire una giovane donna senza vie di mezzo quale Gluck, che ne condanna anche la frequentazione della Lesbian High Society. Fatto sta che nel giro di pochi mesi le due non si sopportano più e Romain scriverà a Nathalie: non ha né mistero né allure. Eppure, se ragioniamo in termini di interpretazione artistica, appare chiaro come Romain si sia completamente immersa nell'oggetto del suo lavoro. È evidente come Romain abbia deciso di assecondare fino in fondo in immagine il rigorismo di Gluck. In questo modo ci fornisce una delle immagini più affascinanti del lesbismo contemporaneo. Gluck è in piedi, l'immagine tagliata ai fianchi ce la mostra girata di tre quarti. Possiamo ammirare il suo abito nero rigorosamente maschile e il cappello che indossa anche in una delle sue foto più conosciute. Sotto l'abito una camicia bianca, una piccola cravatta nera, un gilet a righe. Il punto di vista ci permette di osservare il profilo della nuca, elegantemente scolpita al rasoio dal barbiere Truffitt in Bond Street. Nel volto ossuto non ci sono abbellimenti, se non quelli che vengono dalla serietà dello sguardo, dall'attitudine sicura. La forza di Gluck, le sue scelte di vita, la purezza giovanile dei suoi intenti, tutto affiora sul suo viso determinato e rafforza la monumentalità di un ritratto che è un vero e proprio manifesto lesbico. Che poi Romain, caratteristicamente, abbia giocato sull'equivoco e abbia intitolato il ritratto Peter, a Young English Girl, questo parla più del disagio di Romain che della sua capacità, fenomenale, di raccontare una personalità anche al di là delle sue stesse intenzioni. Scriverà ancora a Nathalie: abbiamo avuto una scena terribile. Sono arrivata alla conclusione che le donne che cercano di essere come gli uomini retrocedono al rango di scolaretti e nulla più. Eppure il suo ritratto mostra come una giovane fanciulla inglese possa vivere con coraggio la sua vita ed essere bellissima. La mascolinità dell'aspetto di Gluck è, paradossalmente, un inno alla sua alla specifica bellezza della femminilità. Comunque si esprima. L'eclatante serie di ritratti lesbici degli anni 20 chiude più o meno la produzione di Roman Brooks. Dagli anni 30 comincerà infatti un lento ripiegamento dell'artista, che dipingerà d'ora in avanti solo sporadicamente e in solitudine. Muore nel 1970, circondata solo dagli effigi dei suoi amici e conoscenti di un tempo. La sua arte, però, conoscerà già nel 1971 una nuova fama grazie ad una retrospettiva dedicatale dallo Smithsonian Institution di Washington, erede designato dei suoi quadri. Vista con gli occhi di un secolo nuovo, la sua pittura si inserisce di diritto non solo nella grande tradizione ritrattistica occidentale, ma anche nella lunga e faticosa storia della definizione e della rivendicazione dell'identità, della storia e dell'iconografia lesbiche. A fronte di secoli e secoli di rappresentazioni velate, allusive, equivoche o addirittura oscene e malevole del lesbismo, funzionali comunque essenzialmente allo sguardo e alla libido maschile, è solo dai primi anni del Novecento che le donne cominceranno a produrre opere in cui l'elemento lesbico si fa espressione di un'identità non solo sessuale, ma sociale, nelle opere di Romaine Brooks, ma anche in quelle di altre artiste. I suoi dipinti sono ad uno stesso momento grandi racconti biografici e dichiarazioni d'esistenza a cui possiamo legittimamente apporre, in quanto pionieristiche affermazioni di una condizione esistenziale, uno statuto politico, intendendo con questa definizione un'azione incisiva sulla società. Esposti nelle mostre, conosciuti tramite fotografia, divulgati da storici e biografi, queste opere hanno contribuito a creare un immaginario lesbico autonomo dallo sguardo maschile, non legato a canoni di riconoscimento ed identificazione eterosessuali, e rispondente invece a una modalità di costruzione e di fruizione delle immagini funzionali all'epoca ad una innovativa visione del lesbismo. Un immaginario specifico nato dal felice incontro tra l'espressione di sé delle donne effigiate e la sensibilità della grande artista Romaine Brooks. Siamo giunti alla fine del nostro incontro. Ringrazio Nancy per il sostegno tecnico e musicale e per la gentile disponibilità. Abbiamo ascoltato brani di Dark Dark Dark, Patti Smith, Amanda Palmer, La Lupe, Florence and the Machine. Se siete interessate a ripercorrere e ad approfondire la vicenda artistica e umana di Romaine Brooks, vi segnalo che sugli atti delle 5 giornate lesbiche vi è un lungo saggio a lei dedicato. Quanto a noi, ci troveremo di nuovo qui, a Vissi d'Arte, Vissi, il 21 maggio alle 20:15. Un saluto da Alessia e buona serata.